Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Poi Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto che produce seme. Saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. La Genesi è il primo dei cinque libri che compongono la Bibbia. E vi è raccontata la creazione del mondo, di tutti gli esseri viventi, dell'uomo e della donna. La descrizione della creazione dell'uomo è meticolosa e particolareggiata. Il Signore prende dal suolo un po' di terra e con quella lo plasma. Gli soffia nelle narici un alito vitale e l'uomo diventa una creatura vivente. Tutte le civiltà antiche hanno un racconto che spiega l'origine del mondo in questi termini. Si parla di creazionismo, la credenza che l'universo, la terra, la vita e l'uomo siano il risultato dell'intervento di una divinità. E questo è il pensare comune fino a tempi relativamente recenti, con lo sviluppo dell'osservazione scientifica. Bisogna attendere il 1859, come spiega il notissimo biologo evoluzionista e divulgatore scientifico britannico Richard Dawkins. È un grande privilegio poter sapere da dove veniamo. Privilegio concesso a coloro che sono nati dopo il 1859, perché è così sorprendentemente affascinante. Realmente è una forza enormemente emozionante sapere che siamo imparentati con tutte le creature viventi, che abbiamo una storia di 4 miliardi di anni di evoluzione lenta e graduale. È un bel pensiero. Siamo gli eredi di 4 miliardi o più di evoluzione. Siamo i cugini di tutti gli esseri viventi. Oggi Destini Incrociati vi racconta che cosa succede in quel 1859 di cui parla il grande scienziato Richard Dawkins. Questa data che sembra essere un importante spartiacque nella storia dell'umanità. Ma per farlo dobbiamo tornare indietro di parecchi anni, per l'esattezza all'ottobre del 1805. Le forze navali di Francia e Spagna cercano di ottenere il controllo della Manica per facilitare l'invasione della Gran Bretagna da parte di Napoleone. La marina britannica risponde a questo pericolo inviando una flotta guidata dall'ammiraglio Horatio Nelson. Capo Trafalgar, promontorio della costa sud-occidentale della Spagna, è teatro di una delle battaglie più incredibili della storia navale. 27 vascelli inglesi combattono fino alla morte contro 33 navi francesi e spagnole. Nonostante la superiorità numerica del nemico, la rinomata bravura dell'ammiraglio Nelson porta la flotta inglese alla vittoria. Mentre le forze navali francesi e spagnole vengono completamente distrutte, non un solo vascello inglese subisce danni. Per Napoleone è la fine delle sue mire espansionistiche sull'impero britannico. Con l'uscita di scena di Napoleone Bonaparte, a seguito della disfatta di Waterloo, 10 anni dopo la battaglia di Trafalgar, l'unica nazione a ritrovarsi con una flotta assolutamente meravigliosa, in piene forze, è proprio l'Inghilterra, che volge i suoi interessi verso la crescita dell'impero attraverso i commerci via mare. Per fare questo, sono indispensabili due cose: eliminare i pirati che infestano i mari e creare delle carte accurate con le mappe delle coste e delle baie che fino a quel momento non esistono. Le terre più interessanti, quelle con le quali per prime la Gran Bretagna ritiene di poter iniziare proficui rapporti commerciali, sono quelle dell'America meridionale, Argentina, Brasile e Cile. La rivoluzione industriale in atto ha bisogno delle immense risorse minerarie di quei paesi. Ma di questi luoghi non esistono carte accurate, solo mappe approssimative che fanno compiere errori spesso macroscopici ai capitani dei vascelli inglesi. Ecco perché viene creata una flotta di navi da ricognizione, scelte fra le migliori della Royal Navy, adibite alle esplorazioni idrografiche e alla realizzazione di carte attendibili. Una di queste imbarcazioni è la Her Majesty Ship Beagle, così chiamata dal nome della razza canina preferita dalla regina Elisabetta I. Nel 1825 i lord commissionari dell'ammiragliato indirizzarono la messa a punto di due navi, atte alla ricognizione delle coste meridionali del Sud America. Nel maggio dell'anno successivo, la Adventure e la Beagle erano alla fonda nel porto di Plymouth, pronte agli ordini dei loro comandanti. I due velieri erano ben equipaggiati, con tutto il necessario ed ogni comfort che la gentilezza e la liberalità dell'ammiragliato aveva voluto loro fornire. L'Adventure, una grande nave di 330 tonnellate, non armata, era agli ordini del comandante Philip Parker King, ufficiale capo della spedizione. La Beagle, di dimensioni più ridotte, di 235 tonnellate, armata con 6 cannoni, era agli ordini del comandante Pringle Stokes. È l'introduzione della raccolta Viaggi dell'Adventure e della Beagle, in 3 volumi, che vede la luce nel 1839. In essa sono racchiuse una quantità incredibile di annotazioni, informazioni di vario genere, dettagli tecnici che riguardano i viaggi di ricognizione effettuati tra il 1826 e il 1836 dall'Adventure e dalla Beagle. L'introduzione reca la firma di un uomo che ha un ruolo determinante in queste missioni esplorative, Robert Fitzroy. Mentre è seduto alla sua scrivania e sta raccogliendo tutte le informazioni da inserire nella narrativa dei viaggi a cui ha preso parte, Robert Fitzroy sta pensando ai lunghi anni di navigazione che ha alle spalle, a tutte le esperienze che ha vissuto così intensamente, a tutte le persone che ha conosciuto e che hanno fatto di lui quello che è ora. Originario di Hampton Hall, nel Suffolk, a nord-est di Londra, Robert Fitzroy nasce nel 1805 da una famiglia dell'alta aristocrazia. La passione per il mare è qualcosa che ha dentro di sé. Fin da piccolissimo chiede sempre di poterlo vedere. La distesa è infinita, le onde sempre uguali ma sempre diverse. L'orizzonte così lontano che fa presagire paesi esotici, genti sconosciute, luoghi incontaminati pronti per essere scoperti. Tutto questo gli dà un senso di pace misto a un grande desiderio. Partire. Ecco perché a soli 13 anni entra al Royal Naval College di Portsmouth, dove studia matematica, i classici, storia, geografia, francese, disegno, navigazione e perfino danza. La sua passione è tale da guadagnarsi il massimo dei voti in tutte le materie, un risultato mai ottenuto prima da nessuno studente. Mentre ritira il suo diploma dal luogotenente, ha la certezza di avere scelto la strada giusta. Ora non gli resta che trovare la nave che lo porti là dove può incontrare la sua felicità, in mare aperto. Pochi giorni dopo riceve una lettera. Egregio signor Robert Fitzroy, anche se ha appena 20 anni, lei mi pare la persona giusta da imbarcare sulla Beagle. Sono certo che sarà un luogotenente perfetto. Suo capitano William Perry. William Perry, capo dell'ufficio idrografico della Royal Navy, incaricato di organizzare le spedizioni di ricognizione, sta valutando i componenti dell'equipaggio della Beagle. La nave è stata rimessa in mare dopo 5 anni di ferma. Risale al 1820 il suo trionfale passaggio sotto il London Bridge, appena costruito, che la consegna alla storia come prima nave ad avere percorso quel tragitto sotto gli sguardi di tutta la città, compreso re Giorgio IV. Ora il brigantino è pronto per riprendere il mare dopo alcuni anni di navigazione fluviale. Il suo è un incarico molto importante e l'equipaggio deve essere sceltissimo. Ecco perché Perry pensa a Robert Fitzroy come luogotenente. È stato il migliore del suo corso e tutti lo considerano un giovane con la testa sulle spalle e con un buon autocontrollo. Tenendo conto che questi viaggi durano alcuni anni, sono doti fondamentali. Fitzroy sta leggendo la convocazione e non crede ai suoi occhi. Partirà con la Beagle, una delle imbarcazioni più in vista della Royal Navy, come conferma Robert Prescott, archeologo marino dell'Università di St. Andrews. Era un'imbarcazione meravigliosa e l'avventura che si apprestava a compiere avrebbe avuto un'eco vastissima. Essere parte di quell'equipaggio era il sogno di tutti i marinai inglesi. C'era però il risvolto della medaglia, mesi e mesi in mare aperto, anni di missioni lontani da casa. Bisognava essere persone molto quadrate. È una mattinata molto calda, quella del 22 maggio 1826, quando la HMS Beagle lascia il porto di Plymouth in compagnia dell'Adventure, pronta ad affrontare il suo lungo viaggio. La destinazione? Patagonia e Terra del Fuoco. Sul ponte del Brigantino, accanto al comandante Pringle Stokes, il giovane luogotenente Robert Fitzroy, che respira l'aria a pieni polmoni, è in preda a una felicità incontenibile. Tutti i suoi sogni si stanno avverando. Il viaggio si preannuncia interessantissimo e lui sa che ne trarrà un'esperienza unica. La Beagle svolge egregiamente il suo compito. Costeggia la Spagna, l'Africa occidentale e arriva infine in Sud America. Le ci vogliono 2 anni buoni e non per tutti sono 2 anni facili. Per Robert Fitzroy, l'amore per il mare e per l'avventura sono più forti della solitudine che si può avvertire a bordo di una nave in mezzo al mare per mesi. Ma c'è anche chi rischia di impazzire. Il giovanissimo luogotenente della Marina Britannica Robert Fitzroy si imbarca sulla HMS Beagle, stupendo brigantino della Royal Navy comandato da Pringle Stokes, diretto in Sud America per una spedizione scientifica di grande importanza. La Beagle e l'Adventure sono incaricate di redigere le carte geografiche dettagliate dei luoghi che attraversano e che ancora non esistono. I lunghi mesi in mare che l'equipaggio deve affrontare non sono facili. La Beagle impiega oltre 2 anni ad arrivare nella Terra del Fuoco e il comandante Pringle Stokes vi giunge in condizioni pessime. Una forte depressione si impossessa di lui e il 2 agosto del 1828 l'uomo si spara. Non muore subito, rimane in coma per 10 giorni e infine lascia la Beagle senza guida. L'ammiraglio Robert Otway, capo del distaccamento della Royal Navy in Sud America, affida il comando della Beagle a Robert Fitzroy, che ricorda nel suo diario questo momento fondamentale della sua vita. Quando mi arrivò il comando dell'ammiraglio Otway, pensai sinceramente: sono troppo giovane per guidare una nave importante come la Beagle. Ma poi ritenni di non dover discutere gli ordini e mi detti subito da fare. Anche se ha solo 23 anni, Fitzroy si dimostra un abile comandante che sa cogliere le opportunità più disparate. È anche protagonista di un evento alquanto strano. Alcuni fuegiani, gli abitanti della Terra del Fuoco, rubano una barca di salvataggio della Beagle. Affinché essa venga restituita, Fitzroy trattiene 4 indigeni, 2 bambini e 2 ragazzi, come ostaggi. La barca viene restituita, ma i ragazzi decidono di restare a bordo. Robert Fitzroy è sul ponte della Beagle. Ha deciso di dare ai 4 ragazzi indigeni un nome. Vengono scelti York Minster, Jamie Button, Fuegia Basket e Boat Memory. Mentre il comandante sta raccontando loro come sia bella la sua patria e quanto sia differente da quello che loro conoscono, i ragazzi sono sempre più affascinati e Fitzroy ha un'idea. Perché non portarli con sé nel viaggio di ritorno? I ragazzi sono entusiasti e le famiglie acconsentono. Il luogotenente W.G. Skyring, assistente del comandante Fitzroy, descrive questo fatto anomalo nel suo diario. Il comandante è attaccatissimo a quei giovani indigeni. Vuole che mangino prima degli stessi ufficiali e da loro i cibi più freschi e prelibati. Dice che non sono abituati a navigare e devono stare in forze. Dice che sono piccoli e devono crescere, ma 2 di loro hanno più o meno la sua stessa età. È che si sente responsabile. I genitori gliel'hanno affidati, non sanno nemmeno quando torneranno a casa, sempre che tornino. Per il momento, quello che interessa di più ai 4 ragazzi fuegiani è vedere l'Inghilterra. Quella mattina del 14 ottobre 1830, la baia di Plymouth deve apparir loro come un miraggio. Robert Fitzroy li sta guardando. Pensa che l'emozione che sta provando lui, dopo oltre 4 anni lontano da casa, non può essere minimamente paragonata a quello che stanno provando quei ragazzi. Non hanno mai visto il mondo civile e stanno per sperimentare qualcosa di incredibile. Tutta l'Inghilterra parla di loro e tutti vogliono conoscerli. Vengono ricevuti persino dal re Guglielmo IV. Il comandante Robert Fitzroy è felice per loro. Vede che sono contenti e che stanno imparando molte cose, ma non dimentica la promessa che ha fatto ai loro genitori: riportarli indietro sani e salvi. Sa da tempo che è prevista una seconda missione della Beagle per completare la rilevazione cartografica del Sud America. Ma questo viaggio dovrà essere organizzato al meglio, come spiega lo storico della scienza David Bisnow. But Fitzroy Fitzroy voleva essere preparato al massimo. Quello che era capitato a Pringle Stokes sulla Beagle, il suicidio per depressione e solitudine, non doveva ripetersi. Per questo prestò molta attenzione a tutto quello che fu caricato sulla nave. Sestanti, telescopi, 22 orologi per calcolare le longitudini. C'erano 73 persone a bordo, compresi i feugiani. Era un aristocratico, sapeva che nella sua famiglia c'era una vena di follia. Anche suo zio si era suicidato e temeva la solitudine. Robert Fitzroy sta riflettendo sul viaggio che ha davanti a sé. Anni di mare aperto, su una nave piuttosto piccola. Sa che la posizione del comandante impone un certo isolamento dall'equipaggio. Si rende conto che gli serve qualcuno con cui parlare, una persona con una buona cultura, con la quale condividere delle conversazioni di un certo livello. Non dovrebbe essere difficile trovare chi sappia cogliere l'opportunità che un viaggio del genere può offrire, visto l'itinerario della Beagle. La sua intuizione lo fa propendere verso un naturalista che possa studiare piante e animali di quelle fertili e straordinarie terre. Ma siccome non sa da che parte girarsi, chiede aiuto al capo dell'ufficio idrografico della Royal Navy, Francis Beaufort, che ha sostituito William Perry. Anche Beaufort non sa chi consigliare al comandante. Per questo interpella un suo amico, John Stevens Henslow, professore di botanica all'Università di Cambridge. È proprio da lui che Robert Fitzroy riceve una lettera. Stimato comandante Fitzroy, sollecitato dal comune amico Francis Beaufort, con grande serenità, mi sento di caldeggiare vivamente una candidatura al suo viaggio. Il giovane in questione ha solo 22 anni, ma è molto preparato ed è una persona a modo. Amabile conversatore e grande studioso. Poi, la sua passione per le scienze naturali è addirittura maniacale. Il comandante Robert Fitzroy sta leggendo la lettera del professor Henslow. L'età così giovane del naturalista che gli viene proposto non lo spaventa affatto. Non aveva forse 20 anni lui quando gli affidarono la Beagle? Ciò che gli interessa molto di più è la qualità della persona, le sue capacità di conversatore, la preparazione scientifica. Deve conoscerlo prima di decidere, anche perché ha altri candidati per quel posto. La mattina del 5 settembre 1831, un giovane uomo sta attraversando St. James Park a Londra ed entra nella sede dell'ammiragliato britannico. La sua meta è l'ufficio del capo dell'ufficio idrologico, Francis Beaufort. Entrando, si trova davanti un giovane ufficiale della Marina inglese, il comandante Robert Fitzroy. A lui si presenta. Il suo nome è Charles Darwin. Charles Darwin. I due giovani si stringono la mano e si soffermano l'uno sul volto dell'altro a cercare di comprendere se chi hanno di fronte la persona giusta con la quale condividere i prossimi anni in una navigazione dura e difficile. Lasciamoli così, intenti a studiarsi. Tra poco, a Destini Incrociati, conosceremo anche noi Charles Darwin. Destini incrociati. Due giovani stanno facendo shopping per le vie di Londra. Non sono due ragazzi qualsiasi e le cose che devono comprare sono piuttosto insolite. Sestanti, bussole, barometri, un gran numero di orologi e un microscopio. È il 6 settembre del 1831 e i due stanno preparando un viaggio storico in Patagonia e nella Terra del Fuoco. Uno dei due si chiama Robert Fitzroy ed è il comandante della Beagle, il brigantino della flotta navale britannica che ha già compiuto un incredibile viaggio in quelle stesse terre e compirà a breve un secondo viaggio di ricognizione con lo scopo di definire le mappe cartografiche delle coste sudamericane. L'altro giovane è Charles Darwin e ha da poco terminato i suoi studi. La posizione che riveste all'interno della missione è quella di naturalista. Dovrà catalogare e studiare tutte le forme animali e vegetali che incontrerà nel suo viaggio. È un'idea dello stesso Fitzroy, quella di portare nel viaggio un esperto di scienze naturali. L'occasione di poter entrare in contatto con una natura così varia e incontaminata non va sprecata. Inoltre, il comandante vuole avere una compagnia, qualcuno con cui parlare nei lunghi mesi di navigazione e con cui condividere le scoperte scientifiche e le avventure del viaggio. Dopo che fummo diventati amici, Fitzroy mi confessò che avevo corso il rischio di perdere il mio ingaggio come naturalista a causa della forma del mio naso. Egli era un grande seguace delle teorie di Franz Josef Gall sulla frenologia e credeva fermamente di poter giudicare il carattere di un uomo dal suo profilo. E si era domandato come potesse una persona con il mio naso avere abbastanza determinazione per compiere un viaggio del genere. Penso che in seguito fosse stato contento che il mio naso gli avesse mentito. Charles Darwin descrive nelle sue memorie l'incontro con Fitzroy e la nascita della loro amicizia. Ma vediamo di conoscere meglio questo giovane 22enne in procinto di partire, nonostante il suo naso, per uno dei viaggi più importanti sotto il profilo scientifico che la Marina Britannica abbia mai organizzato. Charles Darwin nasce a Shrewsbury, un tranquillo paese della campagna inglese, nel 1809. Il padre è il medico condotto e tutti lo amano e rispettano. Charles è uno scolaro piuttosto bravo, con una propensione per le materie scientifiche, ma non ha una passione vera e propria fino a quando non gli capita tra le mani The Natural History of Selborne, del reverendo naturalista Gilbert White. Charles sta leggendo un brano del libro. Quest'estate è incredibile e portentosa. La foschia peculiare, o nebbia fumosa, che ha prevalso per molte settimane in quest'isola e in ogni parte d'Europa e anche oltre i suoi limiti, è stato un aspetto più straordinario, a differenza di qualsiasi cosa conosciuta a memoria d'uomo. Il sole a mezzogiorno sembra vuoto come una luna offuscata e getta una luce color ruggine ferrugginosa a terra, ma è particolarmente rosso al sorgere e al tramontare. Il piccolo Charles, potrà avere 8 o 9 anni, rimane folgorato dalle descrizioni della natura, dai racconti sulla vita degli animali, dai disegni che accompagnano i racconti del reverendo. È così che inizia a collezionare insetti, rocce e minerali, ad osservare gli uccelli e a fare esperimenti scientifici nel capanno degli attrezzi in giardino. Suo padre lo iscrive forzatamente a medicina, ma Charles non si sente tagliato per quella professione. Mentre osserva una lezione in cui si sta rozzamente curando un ammalato, comprende che non è questo quello che vuole fare nella sua vita. Il padre lo spedisce allora al Christ's College a Cambridge, sperando di avviarlo alla carriera ecclesiastica. Ma Charles, invece di seguire le lezioni di teologia, si imbuca quelle di biologia e zoologia tenute dal famoso botanico ed entomologo John Stevens Henslow. Anche se per far felice suo padre termina il corso di studi religiosi, è la biologia la sua passione. Mentre il professor Henslow sta mostrando una catalogazione di coleotteri, che sono da sempre la sua passione, Charles prende una decisione irrevocabile. Dedicherà la sua vita allo studio delle scienze naturali. And then one day, a magic day he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn. Charles Darwin ha intrapreso gli studi di botanica e scienze naturali con il professor John Stevens Henslow, docente all'Università di Cambridge, e completa il suo corso di laurea in tempi brevissimi e con il massimo dei voti. Lo studio delle piante e degli animali lo affascina fin da piccolissimo. Anche se è molto giovane, ha le idee già ben chiare su quello che intende fare nella vita. Ecco perché quando riceve una breve comunicazione dal professor Henslow, fa fatica a contenere la gioia. Carissimo Charles, mi sono permesso di raccomandare vivamente la tua candidatura per la posizione di naturalista in una spedizione che si preannuncia la più interessante mai effettuata dalla nascita della Marina Britannica. Sono certo che saprai cogliere questa opportunità veramente unica. È con l'animo speranzoso che quella mattina del 5 settembre 1831 Charles Darwin sta attraversando St. James Park alla volta dell'ammiragliato britannico. Ha solo 22 anni, ma sente in cuor suo di essere pronto ad affrontare un viaggio del genere, per quanto lungo e pericoloso. Henslow gli ha parlato di una spedizione di ricognizione cartografica in Sud America. Darwin non riesce neanche a immaginarsi la quantità di informazioni preziosissime che potrebbe trarre da un viaggio del genere. La natura in quei luoghi è ancora del tutto incontaminata, inesplorata e pronta a fornirgli anni e anni di lavoro sulla materia a cui egli ha deciso di dedicare la propria esistenza. La cosa che lo emoziona di più è il pensiero di poter guardare, come sottolinea Robert Ballard, presidente dell'Istituto Britannico delle Esplorazioni. Era una persona che sapeva guardare il mondo. Non aveva un laboratorio, una strumentazione specifica, non possedeva un telescopio per guardare le stelle o un microscopio. Lui semplicemente osservava. L'incontro tra Charles Darwin e Robert Fitzroy rappresenta un passaggio fondamentale nella vita di entrambi. Quella della Beagle è una missione molto dura per parecchi versi. Si tratta di stare anni lontani da casa, di vivere nell'angusta ristrettezza di una cabina di nave per mesi e mesi, in balia delle onde spesso parecchio agitate. Si tratta anche di visitare paesi e genti totalmente differenti, ma forse per entrambi i giovani, perché di due giovani si tratta, il fatto di poter contare sull'altro rappresenta una sicurezza. Robert Fitzroy ha già compiuto un viaggio analogo e si è trovato a dover affrontare la tragedia del comandante Pringle Stokes, caduto in depressione per la solitudine e la lontananza da casa, arrivato fino al punto di suicidarsi. La presenza del giovane Darwin lo mette al riparo da qualsiasi forma di depressione. Ha visto l'interesse che il naturalista ha per la missione. Per Darwin è il coronamento di un sogno. Mentre è a bordo della Beagle e guarda il porto di Plymouth allontanarsi in quel pomeriggio del 27 dicembre 1831, ha la certezza di essere parte di un progetto unico. So you're dancing up the ocean, running fast along the sand, a spirit born of earth and water, fire flying from your hands. In the instant that you love, destini incrociati. A Destini Incrociati ci troviamo oggi a bordo della HMS Beagle, il favoloso brigantino della Marina Britannica che sta compiendo un viaggio di grande importanza scientifica. Scopo principale della missione è effettuare i rilievi cartografici delle terre che incontra per fornire mappe attendibili all'ammiragliato navale. La Beagle ha lasciato il porto di Plymouth il 27 dicembre del 1831 e si sta dirigendo verso la Patagonia e la Terra del Fuoco. A bordo, il comandante Robert Fitzroy, di soli 26 anni, ha voluto con sé un naturalista che possa studiare l'incredibile varietà di animali e piante che la nave incontrerà nel suo viaggio. Ma non solo. Fitzroy era luogotenente sulla Beagle in un precedente viaggio, durante il quale il comandante Pringle Stokes si è suicidato per la depressione e la solitudine. E lui non vuole trovarsi in un frangente simile. Per questo ha richiesto a bordo uno studioso, ma anche un compagno di viaggio con cui condividere un'avventura che non ha pari nella storia della navigazione esplorativa. Il suo accompagnatore è il naturalista Charles Darwin. Andrew Marr, giornalista e storico, racconta l'importanza di questo viaggio e della presenza di Darwin a bordo della Beagle. Quando la Beagle gettò l'ancora a Bahia Bianca, in Argentina, Charles Darwin fu profondamente deluso. Scrisse poi nel suo diario che non aveva mai visto un luogo così interamente destituito di creature viventi. Ma questa spiaggia deserta aveva in serbo per lui una sorpresa. Lo avrebbe aiutato a spiegare alcuni dei misteri fondamentali del mondo naturale. E non grazie alle creature viventi, ma grazie a quelle morte. La scoperta di alcune ossa fossili gigantesche di animali dissimili da qualsiasi essere conosciuto alla sua epoca porta Darwin a pensare che si tratti di animali estinti. È un concetto assolutamente nuovo per quei tempi. L'evoluzione sembra essere un fatto regolare in natura. Darwin è elettrizzato da questa scoperta, scava per ore e ore e porta a bordo della Beagle ogni sorta di crani, vertebre e ossa. Mentre Charles Darwin sta riempiendo una serie infinita di pagine di appunti sulle sue osservazioni, Robert Fitzroy lo sta guardando. Quel giovane scrive tutto quello che vede e tutto quello che gli passa per la mente. Forse anche lui potrebbe farlo. È da quando viaggia per mare che si è appassionato alla meteorologia, ha compreso subito quanto le condizioni climatiche influenzino la navigazione e si è anche accorto che spesso a un certo fenomeno ne segue immancabilmente un altro. Questo gli fa venire in mente che forse è possibile prevedere che tempo farà. Buonasera, giornata di Santo Stefano all'insegna del bel tempo, infatti la perturbazione numero 13... È la voce del colonnello Edmondo Bernacca, divenuto famoso presso il grande pubblico verso la metà degli anni 60, grazie alla sua rubrica, la prima mai realizzata dalla RAI, dedicata alle previsioni meteorologiche. Per noi oggi prevedere il tempo è un fatto acquisito, anche piuttosto attendibile dopo l'avvento dei satelliti. Ma all'epoca di Fitzroy, le condizioni climatiche sono la variabile impazzita nei viaggi, soprattutto quelli di mare. Eppure le sue osservazioni lo portano a credere di poter prevedere che tempo farà. Ne sta parlando con Charles Darwin, il quale lo incoraggia e gli dà un ottimo consiglio. Ho potuto sperimentare che scrivere tutte le proprie impressioni aiuta molto. Ma bisogna avere un metodo preciso, bisogna buttarle giù di getto, senza troppo riflettere. Il giorno dopo vanno rilette con spirito critico. Per quanto riguarda il tuo pensiero, ho l'impressione che il tempo possa essere effettivamente previsto, anche se può apparire una follia. Continua nell'osservazione dei fenomeni e tenta di metterli in relazione tra di loro. Tutto sta nel saper guardare. Il viaggio del Beagle prosegue con grande soddisfazione di entrambi i giovani. Darwin riesce a collezionare una quantità impressionante di ossa, piante, specie animali di ogni genere, ne cataloga le caratteristiche, il luogo di origine, le similitudini con altre specie. È impegnatissimo anche a scrivere il resoconto di quella sua esperienza, che pubblica una volta tornato in patria col titolo «Il viaggio della Beagle». Tutto questo suo impegno a bordo fa sì che i mesi che si susseguono ai mesi non lo stanchino minimamente. Robert Fitzroy vive questo fermento con grande partecipazione e a sua volta ha imparato dal compagno di viaggio a mettere sempre su carta le sue esperienze e le sue impressioni. Oramai ha la certezza che le condizioni climatiche possano essere previste con un margine minimo di errore, una convinzione che gli deriva dalle lunghe osservazioni in mare e che al suo ritorno in Inghilterra ha intenzione di divulgare affinché tutti possano sapere che tempo farà. It's a rainy day. It's a rainy day. It's a rainy day. It's a rainy day. It's a rainy day. La stupenda nave della Marina Britannica Beagle sta compiendo la sua missione cartografica che la terrà lontana da casa per molti anni. A bordo il comandante Robert Fitzroy e il naturalista Charles Darwin. Insieme a loro e ai molti uomini dell'equipaggio anche tre fuegiani, indigeni della Terra del Fuoco che Fitzroy ha portato con sé in Inghilterra dal precedente viaggio della Beagle in quelle terre sconosciute. Ora li sta riportando indietro alle loro famiglie. La Beagle compie un viaggio a dir poco strabiliante. Tocca la Spagna, le coste dell'Africa occidentale, arriva in Brasile, circumnaviga l'America del Sud fermandosi nella Terra del Fuoco, risale il Cile, si ferma alle Galapagos, attraversa poi l'Oceano Pacifico, toccando Tahiti, la Nuova Zelanda e giungendo in Australia. Il viaggio prosegue nell'Oceano Indiano fino al Madagascar per giungere in Sudafrica. Dopo un'ulteriore tappa nell'America del Sud, per altri rilevamenti cartografici, finalmente la Beagle ritorna in patria. C'è un temporale di lieve intensità la sera del 2 ottobre 1836, quando Fitzroy e Darwin, dal ponte del Brigantino, scorgono le luci di Falmouth, in Cornovaglia. Nonostante il mio grande amore per Galileo e Copernico, io metterei Charles Darwin sopra di loro per l'importanza delle sue scoperte, perché le teorie di Darwin influenzano l'umanità molto più profondamente di quanto non avvenga per Galileo o Copernico. Il professor Neil Tyson, ricercatore dell'Università di Princeton, non ha dubbi. Le scoperte di Charles Darwin rappresentano un elemento cardine nella storia scientifica dell'umanità. Al rientro della Beagle, dopo ben 5 anni di viaggio, le strade di Fitzroy e di Darwin si dividono. Il comandante diviene direttore del nascente ufficio meteorologico britannico. Pioniere di questa scienza, ha il merito di aver pensato di pubblicare le previsioni sui giornali per renderle disponibili al grande pubblico. Charles Darwin, invece, oltre a pubblicare il suo diario sul viaggio della Beagle, inizia la formulazione di una serie di teorie legate all'evoluzione delle specie animali e vegetali che lo portano alla pubblicazione della sua opera sull'origine della specie per mezzo della selezione naturale o la preservazione delle razze favorite nella lotta per la vita. È il 24 novembre del 1859. Il libro suscita un interesse immediato. Tutte le 1250 copie vengono vendute il primo giorno, dando origine a pareri discordi e alla critica delle istituzioni religiose. Darwin reagisce facendo una dichiarazione pubblica. Non vedo nessuna ragione valida per la quale le teorie sostenute in questo volume possano urtare la sensibilità religiosa di qualcuno. La teoria di Darwin sostiene che gli esseri viventi sono in competizione fra loro per le risorse naturali. In questa lotta per la sopravvivenza, l'ambiente opera una selezione, detta selezione naturale, con la quale vengono eliminati gli individui più deboli, cioè quelli che per le loro caratteristiche sono meno adatti a sopravvivere a determinate condizioni ambientali. Solo i più adatti sopravvivono, trasmettono i loro caratteri e si evolvono in maniera utile. Questa teoria è fonte di aspre controversie perché contraddice il comune pensiero di un intervento divino diretto sulla natura e contrasta con la creazione vista secondo un'interpretazione letterale della Genesi. Essa si trova in completa contraddizione con le interpretazioni di molte leggende e storie religiose che narrano di come si sia originata la vita terrestre, specialmente quando Charles Darwin osa dichiarare che l'uomo discende direttamente dalle scimmie. Oggi le teorie di Darwin sono comunemente accettate e confutate da scoperte scientifiche più recenti e anche la Chiesa ha preso una posizione di apertura al riguardo. Papa Benedetto XVI scrive ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze il 31 ottobre 2008. I miei predecessori, Papa Pio XII e Papa Giovanni Paolo II, hanno osservato che non vi è opposizione fra la comprensione di fede della creazione e la prova delle scienze empiriche. Sono sempre più convinto che la verità scientifica, che è di per sé una partecipazione alla verità divina, possa aiutare la filosofia e la teologia a comprendere sempre più pienamente la persona umana e la rivelazione di Dio sull'uomo. Anche se all'uscita dell'Origine delle Specie, Robert Fitzroy contesta vivamente le teorie del suo amico e compagno di viaggio Charles Darwin, in quanto ciecamente osservante dei dogmi religiosi, ne conferma con chiunque la grandezza e l'influenza positiva che il naturalista ha avuto nella sua vita. Purtroppo, la tara che ogni tanto fa capolino nella sua aristocratica famiglia spunta nuovamente e il comandante si suicida nel 1865 a seguito di una forte depressione. Nonostante le numerose critiche delle comunità religiose e di una parte della società, Darwin continua instancabilmente le sue ricerche, anche confortato da altri studiosi che ne condividono le teorie, come Alfred Russel Wallace. La sua attività è enormemente apprezzata dalle comunità scientifiche di tutto il mondo, tanto che alla sua morte, il 19 aprile 1882, riceve i funerali di Stato e viene sepolto nell'abbazia di Westminster, a pochi passi da Isaac Newton. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me.